Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Bellinzona, 18 novembre 2009. Cittadino spagnolo truffato da finto direttore di banca. È tutta la vita che leggo i giornali e non ci ho mai creduto. Poi, quando ho conosciuto Corazza, nei giornali ci siamo finiti pure noi. Io faccio il barista in una via poco fuori dal centro storico. Sono contento della mia vita. Mi piacciono le cose che si ripetono. I platani che perdono le foglie, i discorsi del sindaco a Capodanno, i tipi strambi che passano il tempo al bar. Il giorno che è arrivato Corazza, per esempio, c'era il vecchio Alfio che aspettava una telefonata. È una vita che aspetta quello. Si presenta qui il mattino vestito di tutto punto con la cravatta e la valigetta per i documenti come per andare al lavoro. Poi si siede e mi fa: attendo una chiamata, Renzo, mi fai cenno se arriva? Naturalmente la chiamata non arriva mai. Del resto non c'è più nemmeno il vecchio telefono a muro, ormai hanno tutti il cellulare. Corazza ha cominciato proprio così, parlando forte nel cellulare. Poi ha preso una birra e mi guardava con la faccia da cane bastonato. Qualche problema? Ho chiesto io, tanto per dire qualcosa. Soldi, mi ha detto. I soldi sono sempre un problema. Chi ne ha? Chi non ne ha, chi li vuole cambiare. Cambiare? Ci vorrebbe uno di cui fidarsi, una persona del posto. Mi pareva che parlasse fra sé, così ho preferito non insistere. Tante volte la gente dice troppo e poi si pente. Allora ti guardano male, come se volessero rimangiarsi le parole, e alla fine cambiano bar. Corazza non mi ha chiesto subito di aiutarlo, ma dopo un po' l'idea è arrivata con naturalezza. Mi ha detto che si occupava di transazioni finanziarie, commercio di valuta, azioni, prestiti e roba così. Un suo cliente che veniva dalla Spagna voleva cambiare 3 milioni di euro in franchi svizzeri e allora avevano combinato un appuntamento nella nostra città. E qui entravo in gioco io. Era un affare delicato, non potevano certo scambiarsi 3 milioni di euro al bar. Perciò Corazza aveva pensato di chiedere a una banca se potessero mettergli a disposizione una sala riunioni per un paio d'ore. Lui non conosceva nessuno in città, ma io abito qui da sempre. A questo punto mi chiederete se non avevo sospetti. Forse sì. Magari non volevo ascoltarli. Corazza mi piaceva. La banca mi ha dato una saletta al primo piano per 2 ore, ma per farla breve, quel maledetto Corazza era un truffatore. Ha aspettato il suo cliente nella saletta, poi ha finto di essere il direttore dell'istituto e quell'altro idiota ci è cascato. Con la scusa di contare i soldi, Corazza si è assentato per qualche minuto. In realtà è uscito dalla banca e lo spagnolo non l'ha più visto. Naturalmente aveva con sé i 3 milioni di euro. Il guaio però è che io l'ho visto Corazza. Prima di sparire è passato dal bar e mi ha mollato una busta con qualche migliaio di euro. C'eravamo soltanto io e Alfio, nessun altro testimone. Io ho preso i soldi e questo alla polizia non è piaciuto. Mi hanno interrogato per ore prima di rilasciarmi con la promessa che non era finita. Ma per fortuna, stasera, è successo qualcosa di strano. Era quasi l'ora di chiusura, al bar non c'era nessuno. Stavo pensando di andarmene anch'io. Quando si è aperta la porta ed è entrato il vecchio Alfio. Allora ho sentito che saresti un truffatore, mi ha detto. Che ne sai tu? Ho ribattuto io. Chi te l'ha detto? Ma stavolta direi che ci è andata bene. Cosa? Quello spagnolo ha scelto il modello giusto. Così dicendo, Alfio ha appoggiato la sua valigetta sul balcone. Anche allora non ho capito e il vecchio ha dovuto spiegarmi. È bastato un attimo mentre lui controfirmava la ricevuta. Il vecchio mi ha strizzato l'occhio. Si è portato 2 dita alla fronte come per sollevare un inesistente cappello. Poi ha fatto una specie di inchino ed è uscito di corsa, lasciando lì la valigetta. Io mi sono precipitato sulla soglia. Alfio era già lontano sulla sua vecchia bicicletta, confuso fra le luci e le ombre dei lampioni. Sono tornato al bancone e ho aperto la valigetta. 3 milioni di euro. Ho richiuso subito il coperchio. I giornali hanno riferito che la valigetta della truffa era stata ritrovata vuota alla periferia della città, ma in realtà si trattava della valigetta del vecchio Alfio, che per un caso sorprendente era uguale a quella dello spagnolo. Alfio le aveva sostituite, era riuscito a fregare Corazza senza che nemmeno se ne accorgesse. Poi mi aveva riportato i soldi come nuovi. E adesso sono qui che scrivo da ore e non ho ancora preso una decisione. Lo so, dovrei andare alla polizia, ma mi piace immaginare i soldi nella valigetta e pensare ai viaggi, alle pazzie. È tardi. Dovrei chiudere il bar e andare a letto. Questa è la mia città e non ho bisogno di altro. Come avventura mi basta aprire il bar ogni mattina, mi basta scambiare 2 parole con il vecchio Alfio, con gli avventori abituali e con quelli che passano di qui. Non ho bisogno di altro. E allora, perché non riesco a dormire? Andrea Fazioli, in libreria con Come rapinare una banca svizzera. Guanda, 341 pagine, 17 euro.